Quello Paolo non è che è timido, solo che gioca parecchio su sto fatto della timidezza, che così si pensa che acchiappa di più. Ma mo Paolo c'ha quasi 40 anni, ancora che si convince che la tecnica dell'essere timido funzioni. Ma alla fine si ritrova che si fa le pippette davanti ai porno di youtube.com, o peggio ancora chiama qualche prostituta cinese, che le cinesi e le giapponesi hanno un rapporto qualità-prezzo migliore. Nel mercato delle prostitute, le cinesi sono come i film pezzotti napoletani per i DVD. Costano un cazzo e la qualità è alta. E allora Paolo si è convinto che lui c'ha la ragazza, che il suo ragionamento è: tanto io, se avessi avuto una fidanzata, l'avrei dovuta portare a cena fuori, ogni tanto un regalino, alla fine spendi quei 30-35 euro a settimana, che così lui ci va cinese. È un ragionamento un po' del cazzo, secondo me, ma contento lui, contenti tutti, soprattutto il popolo cinese. Poi, considerando che la cinese di cui si è invaghito è sua cugina di secondo grado, la cosa è buona, perché ogni tanto lei fa lo sconto. Lei è carina proprio, 22 anni, mora, belle tettine sode, fisico di chi scopa almeno con 6 uomini al giorno. Si fa chiamare Lilly, come Lilly il vagabondo ma senza il vagabondo. Secondo Paolo lei si è innamorata di lui, perché dice che gli fa il bocchino senza preservativo. Ma io non è che ne sono poi così sicuro. Insomma, pure mia madre fa il bocchino senza preservativo a mio padre, ma mica si amano.